c'è qualcuno qua. Come sempre non c'è nessuno, Natalie. Buongiorno, buona domenica. Ciao, buongiorno Gianfra. Stavo provando questo apparato qua, come stava andando. Capite? Sembra che stia andando. E tu, tutto bene? Yes, sir. Va bene, va bene. Stavo provando, perché ce l'avevo fermo da tanto tempo questo apparato qua e volevo sapere come stava andando di radio. La radio è sempre la tua, non è fortissima, rispetto a quella che c'avevi prima, però è comprensibile comunque. Sono basso di radio, di watt. Guarda a vedere se va un po' meglio adesso. Eh sì, adesso è salita di parecchio. Ok, va bene, mi interessava quello. Ok, altre novità? Niente, tutto tranquillo, tutto filadiscio. Sta tornando un po' di caldo, ma vabbè, almeno non è di quello pesante. E siamo qua. Infatti siamo qua. Io adesso fra un po' mi metto a cucinare, se no qua non si mangia. Quello è importante. Quello è importante. Vabbè, dai, già ti diverti anche a cucinare. Vabbè Natalie, me ne torno al lavoro. Ci sentiamo. Cappa, ti lascio al tuo da fare, dai. Alle prossime. Ok, a dopo. Chilometri di distanza sono dovuto tornare di corsa a dire ma chi è questo che sta, qualche spagnolo così lo picchio. No, io non sono né spagnolo e non c'ho la chitarra, hai capito? più che chitarra mi sembrava un mandolino comunque. la chitarra è più grande da tirare solo in testa, ma... Ah, così, stavo provando l'omologato, perché mi sembrava che avevo stazionario, boh. Sì, sempre provando questi giocattoli. Ti volevo vedere poi, al dunque, quando devi mettere le cose grosse, con chi provi, che non c'è nessuno. Parlerò con Muro, come diceva Falcone. E così ti impari. Infatti. Andiamo bene, andiamo. Ma te l'immagini, a settembre iniziano le lezioni. Ma lo vuoi dire? Ma c'è qua quello, è tutto sbagliato, c'è tutto da rifare. È tutto da rifare. Vabbè, io continuo a lavorare, tra poco tanto mi chiamano per fare qualcosa, anzi per mangiare, no, ancora presto, sto finendo alcune cose al PC. Lavora, tu sì che sei infaticabile e indefesso, lavorando. Ok, dai, ci sentiamo, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, riprendi il tuo lavoro, dai. Più che altro sto diventando un cibio a forza di star dietro a queste cose. Comunque, vabbè, come ti dico, si fa. Tanto adesso subito, fra un po' mangio, e quindi stavo solo provando questi apparati qua che erano fermi da tempo, diciamo così. Ok, dato che non c'è nessuno, io ritiro in buon ordine anch'io. Ciao Gianfra, alle prossime. Ok, ciao, buona domenica. Ci sentiamo nel pomeriggio, se ci sei. Ciao.